Capitolo secondo. Visita di Albertine. Prospettive di un ricco matrimonio per certi amici di Saint-Lieu. Lo spirito dei Guermantes davanti alla principessa di Parma. Una strana visita al signor de Charlieu. Capisco sempre meno il suo carattere. Le scarpette rosse della duchessa. Benché fosse semplicemente una domenica d'autunno, mi sentivo come rinato. L'esistenza si stendeva intatta davanti a me, perché quella mattina, dopo una serie di giornate miti, verso mezzogiorno si era alzata una nebbia gelida. Ora basta che il tempo cambi perché il mondo si ricrei insieme a noi. Una volta, quando il vento soffiava nel mio camino, ascoltavo i suoi colpi contro la valvola di ventilazione con profondo turbamento, quasi fossero, al pari dei famosi colpi d'archetto con i quali inizia la sinfonia in do minore, i richiami irresistibili di un misterioso destino. Ogni mutamento a vista della natura ci offre un'analoga trasformazione, adattando al nuovo stato delle cose i nostri desideri armonizzati. Sin dal risveglio, la bruma aveva fatto di me, anziché l'essere centrifugo che si diventa nelle giornate di bel tempo, un uomo ripiegato su se stesso, desideroso dell'angolo accanto al fuoco e di compagnia a letto, un Adamo freddoloso in cerca di un'Eva sedentaria nella cornice di quel mondo diverso. Fra il grigio, dolce colore di una campagna mattutina e il sapore di una tazza di cioccolata, io facevo consistere tutta l'originalità della vita fisica, intellettuale e morale che avevo condotta, circa un anno prima, a Doncières, e che, blasonata dalla sagoma oblunga d'una collina spelacchiata, sempre presente anche quando era invisibile, formava in me una serie di piaceri assolutamente inconfondibili, ma non raccontabili agli amici, nella misura in cui le impressioni che ne costituivano l'orchestrazione, riccamente intessute le une nelle altre, li caratterizzavano per me solo e a mia insaputa, assai più dei fatti che avrei potuto riferire. Da questo punto di vista, il mondo nuovo nel quale la nebbia di quel mattino m'aveva immerso era per me un mondo già conosciuto, il che ne accresceva la verità, e dimenticato da qualche tempo, il che gli restituiva tutta la sua freschezza. E potei contemplare alcuni dei quadri di bruma che la mia memoria aveva collezionati, in particolare qualche mattino a Doncières, la prima volta in caserma o un'altra volta in un castello vicino, dove Saint-Lieu mi aveva portato a trascorrere un giorno e una notte. Dalla finestra di cui, all'alba, prima di ritornare a letto, avevo sollevato le tende, nel primo mattino un cavaliere, nel secondo, sull'esiguo limitare di uno stagno e d'un bosco, per tutto il resto inghiottiti dall'uniforme, liquida dolcezza della nebbia, un cocchiere intento a lustrare dei finimenti, mi erano apparsi come quei rari personaggi appena visibili all'occhio che deve adattarsi alla misteriosa vaghezza delle penombre, emergenti da un affresco sbiadito. Era dal letto che, oggi, stavo guardando quei ricordi, perché mi ero coricato di nuovo in attesa del momento in cui, approfittando dell'assenza dei miei genitori, andati per qualche giorno a Combray, mi sarei recato la sera ad assistere a un piccolo spettacolo in casa di Madame de Villeparisis. Forse, una volta che fossero tornati, non avrei avuto il coraggio di farlo. Mia madre, tutta presa dagli scrupoli del suo rispetto per il ricordo della nonna, voleva che ogni segno di lutto che le veniva tributato fosse libero, sincero. La mia uscita non sarebbe stata oggetto di un suo divieto, ma della sua disapprovazione. Da Combray, invece, se l'avessi consultata, non mi avrebbe risposto con un triste «Fa come vuoi, sei abbastanza grande per sapere quello che devi fare», ma, rimproverandosi d'avermi lasciato solo a Parigi e misurando il mio dolore dal suo, avrebbe auspicato per me delle distrazioni che lei, certo, non si sarebbe concesse, nella convinzione che anche la nonna, preoccupata soprattutto della mia salute e del mio equilibrio nervoso, me le avrebbe consigliate. Dal mattino era stato acceso il nuovo calorifero ad acqua. Il suo sgradevole rumore, che di tanto in tanto si strozzava in una specie di singulto, non aveva alcuna connessione con i miei ricordi di Doncier, ma il suo prolungato incontro con loro, quel pomeriggio, dentro di me, avrebbe instaurato una reciproca affinità, tale che ogni volta, poi, nel risentire, avendone un po' persa l'abitudine e il riscaldamento centrale, mi sarebbero tornati alla mente. In casa c'era solo Françoise. La nebbia era sparita. La luce grigia, scendendo come una pioggia sottile, tesseva e ritesseva reti trasparenti in cui i passanti domenicali sembravano inargentarsi. Avevo lasciato cadere a terra le Figaro che coscienziosamente facevo comprare ogni giorno da quando avevo inviato a quel giornale un articolo che non vi era comparso. Malgrado l'assenza del sole, l'intensità della luce mi indicava che si era appena a metà pomeriggio. Le tende di tulle della finestra, vaporose e friabili, come non sarebbero state in una giornata di cielo sereno, avevano la stessa apparenza, dolce insieme tagliente, delle ali di libellula e dei vetri di Venezia. Tanto più quella domenica mi pesava la solitudine, in quanto la mattina avevo fatto recapitare una lettera a Mademoiselle d'Estermaria. Robert de Saint-Lieu, dal quale la madre era riuscita ad ottenere, dopo una serie di tentativi penosamente abortiti, la rottura con l'amante, e che successivamente era stato mandato in Marocco perché dimenticasse quella donna che già da qualche tempo non amava più, mi aveva annunciato, in un biglietto pervenutomi il giorno prima, il suo prossimo arrivo in Francia per un breve congedo. Poiché avrebbe fatto solo un salto a Parigi, dove la sua famiglia evidentemente temeva che potesse riattaccare con Rachel, mi informava, per dimostrarmi che aveva pensato a me, di aver incontrato a Tangeri Mademoiselle, anzi Madame d'Estermaria. La giovane donna, infatti, aveva divorziato 3 mesi dopo il matrimonio e lui, ricordando quanto gli avevo detto a Balbec, le aveva chiesto a nome mio un appuntamento. Ben volentieri, gli aveva risposto Madame d'Estermaria, avrebbe pranzato con me durante il periodo che pensava di trascorrere a Parigi prima di far ritorno in Bretagna. Robert mi esortava a scriverle senza indugio perché doveva essere già arrivata. La lettera di Saint-Lieu non mi aveva stupito, benché non avessi sue notizie da quando, all'inizio della malattia della nonna, mi aveva accusato di perfidia e tradimento. Avevo capito benissimo allora cosa fosse successo. Rachel, cui piaceva eccitare la gelosia dell'amante e che aveva anche motivi accessori di risentimento verso di me, gli aveva insinuato il sospetto che, durante la sua assenza, io avessi fatto subito le manovre per tentare di sedurla. È probabile che egli continuasse a crederlo, ma, non essendo più innamorato di lei, la cosa, vera o falsa che fosse, gli era diventata del tutto indifferente e quel che contava era solo la nostra amicizia. Quando, rivedendolo, cercai di toccare il tasto dei suoi rimproveri, limitò la risposta a un dolce, tenero sorriso che sembrava di scusa e cambiò discorso. È pur vero che in seguito a Parigi rivide qualche volta Rachel. Le creature che hanno svolto un ruolo fondamentale nella nostra vita non escono quasi mai tutta un tratto, in modo repentino e definitivo. Prima di lasciarla per sempre, vi ritornano per qualche breve sosta, tanto che certuni credono a una ripresa dell'amore. La rottura di Saint-Lieu con Rachel gli si era fatta ben presto meno dolorosa, grazie al rassicurante piacere che ricavava dalle continue richieste di denaro dell'amica. La gelosia, che prolunga l'amore, non può contenere molte più cose di qualsiasi altra forma dell'immaginazione. Se, partendo per un viaggio, Si portano con sé tre o quattro immagini destinate, del resto, a perdersi per strada? I gigli, gli anemoni del Ponte Vecchio, la chiesa persiana fra le brume, eccetera? La valigia è già belle piena. Quando lasciamo un amante, vorremmo, finché non abbiamo cominciato a dimenticarla, che non cadesse fra le braccia di quei tre o quattro possibili protettori ai quali noi stessi pensiamo, vale a dire di cui siamo gelosi, tutti quelli ai quali non pensiamo è come se non esistessero. Ora, le frequenti richieste di denaro da parte di un ex amante non ci danno, della sua vita, un'idea più completa di quella che ci darebbero di una sua malattia eventuali fogli che ne registrassero l'elevata temperatura corporea. Ma questi costituirebbero quantomeno un indizio che è malata, e quelle ci autorizzano a presumere, sia pur vagamente, che colei che abbiamo lasciata o che ci ha lasciati non deve aver trovato granché in fatto di danarosi protettori. Così ogni richiesta viene accolta con la gioia connessa a una tregua nella sofferenza della gelosia ed è istantaneamente seguita da un invio di denaro, giacché si desidera che ella non manchi di niente, tranne che di amanti, d'uno dei tre che abbiamo in mente, fino al momento in cui ci saremo un po' rimessi in sesto e potremo conoscere senza cadere in deliquio il nome del nostro successore. Qualche volta Rachel capitò a tarda sera dal suo ex amante per chiedergli il permesso di dormire accanto a lui sino al mattino. Per Robert era una grande dolcezza, perché valutava quanto fosse stata, comunque, l'intimità della loro vita in comune, semplicemente vedendo che, anche se prendeva per sé un'abbondante metà del letto, non disturbava affatto il sonno di Rachel. Capiva che lei si trovava a suo agio, più che in qualsiasi altro luogo, accanto al suo corpo, che al suo fianco, fosse anche in albergo, riposava come in una camera conosciuta da sempre, dove si hanno le proprie abitudini, dove si dorme meglio. Sentiva che le sue spalle, le sue gambe, tutta la sua persona erano per lei, persino quando, per insonnia o perché aveva da fare, lui si muoveva troppo, di quelle cose così perfettamente usuali che non possono infastidire, che accrescono anzi a percepirle la sensazione del riposo. Per fare un passo indietro, la lettera di Saint-Lieu dal Marocco mi aveva tanto più turbato in quanto leggevo fra le righe ciò che egli non aveva osato scrivere in modo più esplicito. «Puoi benissimo invitarla», mi suggeriva, «in una saletta riservata. È una giovane affascinante, ha un carattere delizioso. Vi intenderete alla perfezione e sono certo fin d'ora che passerai una magnifica serata». Siccome i miei genitori tornavano alla fine della settimana, sabato, domenica, e dopo sarei stato costretto a pranzare in casa tutte le sere, avevo subito scritto a Madame de Stermaria proponendole un giorno a sua scelta sino a venerdì. Mi era stato risposto che avrei ricevuto una lettera quella sera stessa, verso le 8. Ci sarei arrivato abbastanza facilmente se avessi avuto, durante il pomeriggio che me ne separava, il soccorso di una visita. Quando le ore si avvolgono nelle chiacchiere, non riusciamo più a misurarle e nemmeno a vederle. Svaniscono e all'improvviso, lontanissimo da dove c'era sfuggito, il tempo, agile e deluso, torna a offrirsi alla nostra attenzione. Se siamo soli, invece, la preoccupazione, riproponendoci di continuo il momento ancora distante e atteso senza posa, con la frequenza e la regolarità di un tic-tac, divide, o meglio, moltiplica le ore per tutti i minuti che, in compagnia, non avremmo contati. E posto a confronto, dal ritorno incessante del mio desiderio, con l'ardente piacere che avrei assaporato, soltanto ahimè di lì a qualche giorno, assieme a Madame de Stermaria, quel pomeriggio che dovevo concludere da solo, mi sembrava ben vuoto e malinconico.